La storia e la memoria di Dino Pesole. Non l'hanno ucciso le Brigate Rosse. Moro e i ragazzi della scorta furono uccisi dallo Stato. Si torna a parlare del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro a distanza ormai di 35 anni, da quando il corpo dello statista democristiano venne trovato crivellato di colpi d'arma da fuoco in via Caetani. Sono stati scritti volumi, valanghe di articoli e inchieste, film e sceneggiati. Questa sera vi proponiamo di tornare insieme su una delle pagine più tragiche e oscure della nostra storia, in compagnia di un attore di teatro, Ulderico Pesce, che è in studio con noi questa sera. Buonasera Ulderico e bentornato. Grazie Dino. I nostri ascoltatori ricorderanno che qualche anno fa Ulderico Pesce è stato nostro ospite in occasione della pièce su Passannante. Questa sera lo spettacolo che vi presentiamo è in scena dal 3 al 15 dicembre al Teatro Lo Spazio di Roma. Il titolo è Moro, la strage di Via Fani. La frase che abbiamo appena ascoltato, non l'hanno ucciso le Brigate Rosse ma lo Stato, è il fulcro dell'azione scenica ed è documentata dalle indagini del giudice Ferdinando Imposimato, titolare dei primi processi sul caso Moro, che nello spettacolo compare in video interagendo con il protagonista e rivelando alcune verità che sono rimaste nascoste per tutti questi anni. Il titolo dello spettacolo è Moro con la M minuscola, a voler sottolineare che nel cognome del grande statista c'è la radice del verbo morire. Ecco Ulderico, è come se la morte di Moro fosse stata scritta, tra virgolette, ma scritta da chi? Scritta da chi è bizzarra la cosa, nel senso che certamente i terroristi, i brigatisti rossi hanno fatto di tutto, però o volontariamente o in maniera inconsapevole ai brigatisti si sono associate altre forze. Per esempio c'era l'interesse della CIA, del KGB, ma soprattutto della destra storica della Democrazia Cristiana, prevalentemente capeggiata da Andreotti e Cossiga. Lo spettacolo è costruito su documenti, non su chiacchiere. Pertanto, per esempio, per motivare e argomentare e documentare l'apporto della democrazia, della destra della Democrazia Cristiana, c'è Piacenzenik, che è l'uomo di Nixon, mandato dagli Stati Uniti d'America in Italia il giorno dopo l'attentato, il rapimento di Moro, che dice chiaro e tondo in un documento che abbiamo e che facciamo vedere durante lo spettacolo, lo leggiamo, dice che io ero con Cossiga quando si trattò di decidere se salvare Moro o farlo morire. Inventammo il settimo comunicato finto, lo attribuimmo alle Brigate Rosse, comunicammo all'Italia che Moro era stato già ucciso e sepolto all'interno del lago della Duchessa e quel comunicato era finto. Ci accordammo con Francesco Cossiga, ministro degli interni, affinché il popolo italiano si preparasse psicologicamente alla morte di Moro. I brigatisti rossi potevano o cadere nella trappola o, uccidendo Moro, o liberarlo. Entrarono nella trappola, uccisero Moro. Dice così, Moro doveva morire. Chi ha partecipato? Sono molte le forze. Certamente va ricordato ai radioascoltatori che quella mattina del 16 marzo 1978 Aldo Moro andava in Parlamento, alla Camera dei Deputati, a leggere il documento con cui si apriva per la prima volta in Italia al Partito Comunista, cioè le masse popolari diventavano in qualche modo rappresentate da Berlinguer e dal PC. Stiamo parlando della strage di Via Fani che tutti ricorderanno. Del 16 marzo 78, quando ecco, vedi, anche le dinamiche con cui sono stati rapiti Moro e sono stati uccisi gli uomini della scorta sono dinamiche non da terrorismo italiano, sono dinamiche da guerriglia, sì, da assalto di Stato. Un'azione terroristica in piena regola. Ma è l'apporto di l'apporto di chi di queste cose si intende, cioè secondo il giudice ci sono i servizi segreti, c'è la P2, c'è Gladio, cioè la P2 di Licio Gelli, Gladio, che nasce intorno agli anni 50-60 e sono i migliori militari italiani di cui fanno parte, che fanno parte di questa società e che serve a stabilizzare lo Stato bloccando tutte le energie che possono arrivare dalla sinistra politica. Bene, lasciando ovviamente ai nostri ascoltatori il piacere di venire a vedere questa importante, interessante PS, a un attore di teatro non possiamo che chiedere per radio di darci una qualche anticipazione di quello che lui mette in scena, seppur sì, in poco. Allora Dino, visto che stavamo proprio citando dalla tua prima domanda le stranezze, sì, su quello che succede, mi piacerebbe recitarvi per esempio un pezzo dove io, che sono Ciro Iozzino, il fratello di uno dei membri della scorta ucciso, che vuole sapere a tutti i costi la verità, quando il 9 maggio va a trovare il giudice imposimato più volte, che era titolare del processo, e poi dice: arrivò il 9 maggio e la televisione fece vedere quello che non volevamo vedere. Il 9 maggio venne trovato il corpo di Aldo Moro in via Caetano. Morto, ecco. Sì. Nella Renault rossa famosa. Sì, e meno male che mia mamma era là nel letto, perché la mamma di Ciro Iozzino appena vede l'immagine del figlio morto non si alzerà più dal letto. E mia mamma era nel letto di fronte alla televisione, non funzionava, e meno male che non funzionava la Mivar, perché così mia mamma non vide Moro col ciuffo bianco morto nella Renault 4 rossa. Io lo vidi e chiamai il giudice e gli dissi: giudice, è morto anche il sogno di mio fratello, vedere Aldo Moro presidente della Repubblica, è morto il suo sogno. E il giudice disse: in Italia è meglio non sognare. E invece si deve sognare, giudice. Si deve sognare, giudice. E per sognare si deve dormire sereni. E la serenità arriva solo se si conosce la verità. La verità, giudice. E noi dobbiamo trovarla, questa verità. E io mi chiedo e vi chiedo a voi, giudice, e a chi mi sente, chiedo... E mia mamma stessa, che non parla più, chiede: perché al giudice imposimato, il giudice istruttore a Roma, gli vengono assegnate le indagini solo il 17 maggio 1978, 8 giorni dopo la morte di Moro? Perché il codice di procedura penale diceva che le indagini si dovevano consegnare al giudice istruttore nel momento stesso in cui avviene il fatto, non 9 giorni dopo che Moro era già morto. E altre stranezze, giudice, che in Italia dobbiamo ritornare a sognare e sapere la verità. Nella zona di Via Fani, subito dopo il rapimento, ci fu un blackout telefonico, si interruppero tutte le comunicazioni telefoniche e quindi le persone che volevano telefonare, avvisare che avevano visto la sparatoria e dare informazioni precise, non lo potettero fare perché la SIP dell'epoca non funzionava. Ma ancora altre stranezze, e dobbiamo sapere la verità. Alle ore 8:30, Radio Città Futura, una radio di Roma, Renzo Rossellini stava al microfono, alle 8:30 dà l'annuncio che un importante uomo politico della Democrazia Cristiana era stato rapito. Come fa Radio Città Futura a sapere che è stato rapito quando invece viene rapito mezz'ora dopo alle 9? È un'altra cosa importante che dobbiamo sapere, giudice. Alle ore 9 si interruppero tutte le registrazioni del Lucigos. Lucigos era una squadra speciale di polizia inventata da Francesco Cossiga, che doveva registrare tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive. Dalle ore 8:30 alle ore 9:30 si interrompero le registrazioni. Ma non finisce qua. Quante stranezze sono successe a Via Fani, e noi dobbiamo sapere la verità. Una stranezza: Alessandro Marini, un ingegnere che camminava col motorino, arriva col motorino e sparano, cade a terra quasi morto, ma niente, fu ferito leggermente e basta. Ma Alessandro Marini vide sull'onda blu sparare, non erano solo i terroristi. Chi erano questi due uomini sull'onda blu? Nessuno l'ha voluto dire. Allora, Ulderico, in conclusione, grazie per questa anticipazione della PS. Questo vostro lavoro vuole prima di tutto contribuire alla scoperta della verità, leggo appunto nella presentazione. È un obiettivo ambizioso perché in 35 anni ancora non ci si è arrivati. Come fa il teatro a contribuire alla scoperta della verità? Il teatro può prendere le indagini giudiziarie e divulgarle. E quello che è importante è la coscienza popolare. Il teatro può aiutare molto. E il connubio attore-giudice può essere un connubio straordinario. Io non faccio altro che ripetere tutto ciò che il giudice imposimato ha scoperto in questi anni di attività. Attenzione, nel 1983 gli fu ucciso addirittura il fratello Franco. Bene, allora grazie ancora Ulderico Pesce, complimenti per questo nuovo lavoro che ovviamente invitiamo tutti ad andare a vedere a teatro. Grazie ancora e buona serata.